Siamo noi, siamo noi che non abbiamo pace. Siamo noi, siamo noi che non abbiamo più voce. Siamo noi, siamo noi, siamo noi, uomini del mondo. Dove sei, Dio del cielo, Dio dell'universo? Guardaci, siamo qui. Siamo noi, siamo noi, siamo noi. Figli confusi, bimbi agitati, cuori buttati. Figli tuoi, siamo noi, siamo noi in questo grande deserto. Camminiamo, oh, camminiamo liberi, ma ti abbiamo perso. Siamo noi, siamo noi, siamo noi, uomini del mondo. Vieni a noi come il vento, Dio d'amore senza tempo. Vieni, prendici così. Agitati, cuori buttati, figli tuoi, figli tuoi.